Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Abbiamo mai iniziato Mevius parlando di carote? No, di carote a meno 50 gradi mi pare proprio di no. E di ortolani antartici allora. Adesso i titoli, poi incominciamo. Benvenuti a Mevius. Eurocold è uno dei più grandi laboratori polari per studiare i cambiamenti climatici. È stato appena inaugurato all'Università di Milano Bicocca. Come fa la linfa delle piante a salire dalle radici fino alle foglie contro la gravità? La domanda impossibile della settimana arriva da Enrico. Tempo di internazionali di tennis. Proviamo a capire come i tennisti e gli atleti riescono ad avere tempi di reazione e riflessi straordinari. Tutta questione di cervello? I neuroni sono cellule che non si riproducono e quindi col tempo si deteriorano. Oppure no? C'è chi dice che si rinnovano in continuazione. Vabbè, svegliamolo. Proprio 2 o 3 giorni fa è stato inaugurato uno dei laboratori più all'avanguardia, soprattutto in Europa, ed è proprio a Milano, all'Università Bicocca. Si chiama Eurocold, appunto, come freddo. Europa fredda. E lì vengono conservate, come dicevi, queste carote che non sono ortaggi, ma di ghiaccio. Sì, anche un po' grandi. Molto grandi e che vengono da tutti i ghiacci del mondo, ma adesso ci faremo raccontare dal responsabile del laboratorio, nonché professore di climatologia in Bicocca. Buonasera professor Walter Maggi. Buonasera a tutti. Buonasera Maggi. Benvenuto. Allora, l'ha appena inaugurato, quindi ci sarà un po' di adrenalina, ma intanto ci racconti, per noi che non abbiamo potuto vederlo, comunque abbiamo visto solo qualche foto, come funziona. Ci sono tante stanze, anche molto grandi, mi sembra che siano 600 metri quadri, in cui ci sono delle temperature non proprio piacevoli. Sì, è un nuovo laboratorio che, proprio per la sua natura, non solo per il suo nome, ha due stanze, una che è a temperatura fino a meno 30 ma è una che arriva fino a meno 50 gradi. Abbiamo in effetti quasi 600 metri quadri di laboratori nuovi a disposizione. E che cosa si conserva in queste stanze? Allora, noi lavoriamo con le carote di ghiaccio, cioè sono dei cilindri di ghiaccio di 10 cm di diametro e della lunghezza fino a 3 metri, che però messi insieme hanno quasi 3 km di lunghezza in totale. Quindi tanti. Tantissimi, esatto. Sono stati prelevati in Antartide, sono stati prelevati sulle Alpi, dalla Groenlandia, e sono degli archivi naturali di informazioni della nostra atmosfera. Cioè, ci sono stati delle spedizioni che sono andate a raccoglierle e le hanno portate in questi laboratori dove vengono conservate. E che cosa si capisce, insomma, che tipo di studi fate su queste carote? Lei tra l'altro è andata a prenderle in Antartide, cioè si è speso anche lei. Esatto, sì, anch'io sono stato tra quei fortunati che hanno fatto queste spedizioni in Antartide. Siamo andati in Antartide, abbiamo prelevato queste carote. E appunto queste carote vengono conservate tutte le informazioni della storia del nostro clima, della nostra atmosfera, del clima del passato. Attualmente siamo in grado di raccontare 820.000 anni di storia del nostro pianeta. Ma perché sono prese in profondità? Sì, sono prese in profondità, dunque noi abbiamo prelevato carote fino a 3.300 metri di profondità all'interno dell'Antartide, quindi una profondità, praticamente abbiamo raggiunto la base del ghiacciaio antartico. Ma quindi cosa avete? Una specie di trivella tipo petrolio, no? Tipo trivella petrolifera che però va giù e prende questi cilindri? Sì, abbiamo una trivella non di tipo petrolifero, perché il ghiaccio non è così duro come la roccia, quindi non è necessario usare delle tecnologie così pesanti, molto più semplici, che però ci permettono di raccogliere queste carote. Arriviamo appunto attualmente, anche se la perforazione più profonda ha raggiunto i 3.800 metri di profondità, noi siamo riusciti a raccogliere il ghiaccio più vecchio attualmente conosciuto sul nostro pianeta. Però senta, ma com'è che si fanno a portare qui? Qui lì siete a meno 50, ma poi cosa c'è? Un camion? Un aereo? Un aereo? Beh, come per tutto ciò che è congelato, bisogna garantire la famosa catena del freddo. Appunto. Noi abbiamo il materiale chiaramente prelevato a temperature molto fredde, meno 50, meno 30, meno 20, poi vengono caricate su dei container, freezer, attrezzati per questo, e normalmente via nave rientrano in Europa. poi dopo su camion vengono portati chiaramente nei nostri laboratori. Tra l'altro lì nei vostri laboratori, dove appunto ci sono queste temperature, voi potete in qualche modo lavorare senza deteriorarlo e analizzare così tutti questi strati. Perché appartengono a tante epoche, no? Poi gli strati. Esatto. E che informazioni allora ci danno? Dunque, le informazioni che escono sono di tutti i tipi, cioè appunto il ghiaccio è un archivio che contiene tutte le informazioni dell'atmosfera. Immaginate un fiocco di neve si congela le informazioni dell'atmosfera, cade sul ghiacciaio, si conserva e noi quando andiamo a misurare questo fiocco di neve abbiamo tutte queste informazioni. Quindi possiamo raccontare la storia della temperatura del nostro pianeta, della composizione chimica della nostra atmosfera. Abbiamo la composizione dei gas, addirittura i gas serra della nostra atmosfera, delle polveri fini che erano intrappolate nella nostra atmosfera. E il bello del ghiacciaio dell'Antartide in modo particolare è che queste informazioni sono impilate, sono in ordine, sono perfettamente ordinate a partire appunto da 800.000 anni fino a oggi. Che è quella più superficiale naturalmente. Mm. Che è l'ultima nevicata naturalmente. Come mai ce l'abbiamo noi in Italia? Cosa abbiamo fatto per meritarcelo? Possiamo dire perché siamo bravi? Perché siete bravi, va bene. Sì, possiamo dirlo. Ci possiamo permettere di vantarci di essere bravi, no. È successo che chiaramente collaboriamo all'interno di progetti internazionali, grazie al supporto del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide siamo riusciti a costruire qui a Milano Bicocca un laboratorio e un deposito di stoccaggio, ma in realtà il gruppo che lavora è un gruppo italiano che mette insieme molti centri di ricerca italiani e diciamo grazie alla nostra anche diciamo testardaggine tipica italiana siamo riusciti a farci uno spazio significativo in questo tipo di scienza. Bene, allora bene, insomma il cammino è appena iniziato perché l'avete inaugurato 2 giorni fa, ma adesso noi aspettiamo i risultati. Vi siete portati a casa un po' di lavoro. Esatto, sì, cerchiamo di pensare anche al nostro futuro e al futuro di chi verrà dopo di noi. Sì. Il telelavoro glaciale, va bene, grazie Maggi, davvero in bocca al lupo, buon lavoro. Auguri, ciao, buona ricerca. Grazie a tutti. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sai che io dopo che è arrivata la domanda sono andato vicino a un geranio che ho e hai parlato e si sente quello lì il risucchio. Sì, però devi stare proprio lì. Vabbè, però stai anticipando non solo la domanda ma anche la risposta. Però ero troppo curioso. L'abbiamo trascurata la settimana scorsa, le domande impossibili dei nostri ascoltatori. Questa settimana l'abbiamo. Allora, intanto ricordiamo come ci possono scrivere gli ascoltatori, come ci possono contattare. Con Twitter, Moebius _, cioè il trattino basso, online. Ok. Facebook, Moebius Scienza, ci trovate facilmente. E poi ovviamente la mail. Moebius@radio24.it. Ok, allora andiamo da Enrico, di Bologna. Vorrei sapere in base a che principio nelle piante la linfa risale dal basso verso l'alto, dalle radici fino alle foglie. Che bella questa domanda. In realtà adesso ci sono delle cose interessanti da dire. E con chi ne parliamo? Con un esperto, il professor Stefano Mancuso. Benvenuto a Mebius. Buonasera, grazie. Lei è docente ma anche direttore del laboratorio di neurobiologia vegetale all'Università di Firenze e ha recentemente scritto un bel libro, Verde Brillante, Sensibilità e Intelligenza del Mondo Vegetale, di cui ora parleremo insieme ad Alessandra Viola, edito da Giunti. Allora, che dice? Diamo prima la risposta di Enrico e poi parliamo di questo libro molto particolare. Volentieri. In realtà Enrico praticamente è andato a farsi la prossima domanda che ha interessato i botanici per almeno 2 secoli. Per fortuna diciamo ormai la risposta la conosciamo. Si tratta di un principio che ha un nome un po' particolare perché si chiama la teoria della coesione traspirazione, però insomma in fondo è molto semplice. Se noi consideriamo il sistema vascolare delle piante come chiuso, quindi come se fossero dei tubi senza contatto con l'esterno, allora all'interno di questi tubi abbiamo un flusso d'acqua continuo che va dal basso verso l'alto che ha come motore la traspirazione da parte delle foglie, cioè in un certo senso le foglie fanno uscire l'acqua sotto forma di vapore acqueo e quindi creano come una specie di risucchio all'interno di questo del sistema vascolare, di questi tubi chiusi che che permette, diciamo, il movimento dell'acqua dal basso verso l'alto. Cioè, quando noi succhiamo con la cannuccia, praticamente... È lo stesso sistema. Però creiamo un sistema di cannucce, diciamo, complesso. Cioè, noi creiamo del vuoto nella cannuccia. Una depressione nella cannuccia che permette quindi la risalita dell'acqua. Perché l'acqua va a riempire il vuoto ed è ecco, fatto. La domanda di Enrico in realtà era sulla linfa, che non è esattamente l'acqua e i sali minerali che vanno dalle radici alle foglie, corretto? Quindi c'è proprio anche questa precisazione. Sì, c'è una differenza perché il sistema vascolare delle piante è simile, diciamo, in qualche maniera a quello degli animali. Cioè, abbiamo un sistema che potremmo dire arterioso e uno venoso. Nel caso delle piante, l'acqua e i sali minerali che dalle radici salgono verso le foglie non sono la linfa, ma sono appunto utilizzano un tipo di vascolatura che si chiama xilema, che sarebbe il legno grosso modo, mentre invece la linfa vera e propria è una sostanza zuccherina, quindi creata attraverso molto attraverso gli zuccheri prodotti dalla fotosintesi nelle foglie, che dalle foglie si distribuisce nel resto della pianta fino alle radici. Quindi, diciamo, è il flusso discendente che si chiama linfa, mentre il flusso ascendente si chiama flusso xilematico. Molto bello questo paragone che lei fa con vegetale e animale, perché infatti il suo libro, che lo ripetiamo il titolo, Verde Brillante, si concentra proprio su questo, sul fatto che le piante siano organismi molto più sofisticati e complicati di quelli che pensiamo. Tanto che ne farei sentire un pezzettino agli ascoltatori. Non solo hanno i 5 sensi, ma molti di più. Le piante possiedono tutti e 5 i sensi dei quali è dotato l'uomo. Vista, udito, tatto, gusto e olfatto. Ognuno sviluppato in modo vegetale, si intende, ma non per questo meno affidabile. È dunque lecito pensare che da questo punto di vista siano simili a noi? Tutt'altro, esse sono estremamente più sensibili. E oltre ai nostri 5 sensi, ne possiedono almeno un'altra 15. Per esempio, sentono e calcolano la gravità, i campi elettromagnetici, l'umidità e sono in grado di analizzare numerosi gradienti chimici. Ma come fate a sapere che hanno l'olfatto? Questo non riesco a capire. L'olfatto è uno dei sensi che potremmo dire più sviluppati nelle piante, perché la comunicazione delle piante, questo è un altro punto fondamentale, cioè le piante comunicano moltissimo, soltanto che invece che comunicare attraverso suoni come facciamo noi, comunicano attraverso molecole chimiche. E quindi per fare un esempio semplice, quando per esempio noi sentiamo i profumi dei fiori, quindi utilizziamo il nostro olfatto, stiamo percependo in verità dei segnali che le piante in quel momento stanno mandando agli animali, agli impollinatori. Però le piante in generale sono ricoperte di recettori di molecole chimiche volatili, quindi diciamo gli stessi recettori che noi abbiamo all'interno del nostro naso, che permettono alle piante di distinguere una varietà incredibile di molecole. Ecco, ma però scusi Mancuso, non è roba di noi specie umana, ma le formiche comunicano così, no? Ma certamente, le formiche, gli insetti, diciamo soprattutto tutti gli insetti sociali, comunicano attraverso le molecole chimiche, e questo è estremamente interessante, perché le piante in effetti sono molto simili, hanno dei comportamenti in questo senso agli insetti, hanno dei comportamenti di sciame, per esempio un apparato radicale che noi normalmente tendiamo a dimenticare, non pensiamo che sotto una pianta ce n'è. Quando guardiamo un albero dobbiamo immaginare che sotto c'è un'altrettanta quantità di massa di pianta formata da radici. Queste radici esplorano il terreno, si muovono, entrano in contatto con altre piante attraverso un comportamento vero e proprio di sciame. Cioè se noi le approssimassimo a uno sciame di insetti, ci accorgeremmo che il comportamento è molto simile. E anche qui il tatto, forse le radici, il senso del tatto... Sicuramente, le radici, cioè noi partiamo sempre da un presupposto errato, che è quello di credere che le piante non si si muovono, e sarebbe corretto dire che le piante non si spostano, cioè non vanno, non vanno in giro dal luogo dove sono nato, ma si muovono tantissimo, si muovono su dei tempi che sono un pochettino più lenti rispetto a quelli degli animali, e quindi devono essere questi movimenti messi in evidenza utilizzando delle tecniche apposite, per esempio di fotografia. Ma quando li mettiamo in evidenza ci accorgiamo che le piante si muovono in continuazione, e le radici, per esempio, se noi osserviamo le crescere, la crescita, il movimento delle radici, ci accorgiamo che è un movimento molto simile a quello di qualunque tipo di animale che non abbia le zampe. Un vermicello. I serpenti che tastano il terreno, esplorano l'ambiente, eccetera. Ecco, ma come tra noi, tra i viventi animali, no? C'è una bella differenza, insomma, tra un polpo, un umano e una formica. Anche nelle piante. Anche nelle piante proprio ci sono grandi differenze fisiologiche? Beh sì. Ci sono delle enormi differenze, soprattutto per quanto riguarda le piante che oggi sono più comuni e potremmo considerare più moderne, le piante da fiore, le angiosperme. Fra l'altro, quando noi pensiamo alle piante, normalmente tendiamo a immaginarle come, no, tendiamo a dire che le piante sono degli organismi molto antichi che sono apparsi sulla terra prima degli animali, eccetera. Questo è in linea di principio vero, nel senso che la vita è iniziata attraverso delle cellule che potremmo chiamare vegetali, ma le angiosperme, per esempio le piante da fiore, che sono le piante più comuni oggi presenti sul pianeta, sono apparse molto dopo l'apparizione dei primi mammiferi, quindi sono degli organismi da questo punto di vista estremamente recenti e che hanno una serie di comportamenti fisiologici e metabolici che sono molto, ma molto differenti rispetto alle piante più antiche, che per capirci sono da una parte le alghe, dall'altra le felci e poi le cimenosperme, quindi le conifere come l'abete, il pino, eccetera, eccetera. Il cipresso. Ecco, se noi guardiamo le differenze fra le angiosperme e le felci, è veramente, stiamo guardando delle differenze sia in termini enormi, di comportamenti, certo, simili a quelle che dividono un mammifero da un insetto. Quindi hanno un percorso evolutivo più complicato di quello che uno può pensare. Direi di concludere con un ultimo capitolo del suo libro, in cui si pone una domanda molto interessante, che forse anche tu ti sei posto, Federico. Le piante dormono? E quando però? Certo che dormono. È uno dei punti più interessanti della ricerca degli ultimi anni. Cioè le piante hanno un ciclo giorno-notte, hanno un ciclo di riposo simile a quello degli animali, e possiedono tutte le caratteristiche di ciò che noi chiamiamo sonno, cioè per capirci, per esempio, ogni specie dorme in una maniera diversa, così come cioè, noi abbiamo gli animali, le mucche che dormono tra gli atti di fianco, oppure l'oca che dorme infilando la testa sotto l'ala, così abbiamo alcune piante che dormono mettendo tutte le foglie verso l'alto, altre verso il basso, altre girandole, eccetera. Sappiamo che è legato all'età, per cui le piante giovani dormono di più rispetto alle piante vecchie. Sappiamo che è un fenomeno che con una parola brutta si chiama omeostatico, in parole povere, se noi non facciamo dormire una pianta per un tempo prolungato, poi quando si mette a dormire dorme più a lungo, cioè hanno tutte quelle caratteristiche che sono tipiche del sonno degli animali. Ma come, queste, ovviamente, come si fa? Scusi, non... gli si lascia accesa la luce? Come si fa a non farla dormire? Gli stessi sistemi che si utilizzano per gli animali, per esempio dandogli delle piccole scossettine elettriche a intervalli prestabiliti durante quello che dovrebbe essere il periodo di sonno, oppure mantenendogli sempre la luce accesa e molto forte. Sì. Che bello, abbiamo capito insomma che siamo molto più simili di quanto si pensasse. Allora io ripeto il titolo del libro: Verde Brillante, Sensibilità e Intelligenza del Mondo Vegetale, edizione Giunti, grazie a Stefano Mancuso. Il libro è stato scritto insieme anche ad Alessandra Viola. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Potremmo partire da questo interrogativo come esempio, cioè come si fa a prendere un servizio tennistico che ci arriva con una palla da tennis a 240 km orari, non sarà mica una cosa normale. Ma, tra l'altro avranno visto tutti in questi giorni e lo vedranno agli internazionali di tennis, al Foro Italico, è impressionante. Sì, allora non è mica una roba che si può fare così normalmente, allenandosi un po'. Sì, non so se è solo allenamento, no, infatti ci siamo posti queste domande e poi ovviamente da lì, come al solito, ci allarghiamo in redazione e facciamo tutte le ipotesi, guardiamo anche gli altri sport. Allora abbiamo pensato di parlare un po' dei riflessi, questi riflessi un po' straordinari che hanno gli atleti, ovviamente, quando arrivano a livelli, ai grandi livelli top. E allora siamo andati in un centro, il centro Mente Cervello dell'Università di Trento, ed è qui con noi il vice direttore Massimo Turatto. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Buonasera Turatto. Proviamo a ragionare con lei. Intanto partiamo dal tennis. Queste reazioni impressionanti che hanno nel rispondere ad un servizio di con una palla che 230, va a 230, 240, ormai oggi lo si può vedere. Non dico su tutti i servizi, ma è frequente. È solo questione di allenamento o c'è anche una questione di cervello? Beh, potrei rispondere che è un allenamento del cervello. Ecco. Quindi ci sono tutte e due le cose. Ma che non è vero che se ci mettiamo lì tutti con un po' di buona volontà ci arriviamo. A un certo momento, in certi sport, quando si arriva nella fascia alta, nei top, lì emergono delle caratteristiche molto specifiche? Sicuramente. Non c'è dubbio che l'allenamento possa fare una grande differenza. Certo, noi siamo affascinati dal vedere questi campioni che hanno queste abilità straordinarie e in effetti si sa che il cervello di queste persone ha alcune abilità straordinarie. In generale non ha senso dire che hanno un cervello straordinario, hanno un cervello che ha sviluppato alcune abilità straordinarie. Ora, per rispondere alla sua domanda, significa che tutti, se ci mettiamo lì ore, arriviamo allo stesso livello? No, probabilmente no. C'è un, chiamiamolo un patrimonio genetico che ha dotato queste persone di alcune capacità particolari che loro, a seguito di un allenamento intensissimo, non dimentichiamoci che queste sono persone che spendono ore ogni giorno a fare la stessa cosa, o quasi, sì, certo, hanno raggiunto abilità straordinarie. E voi neuroscienziati, lei e i suoi colleghi, studiate in qualche modo queste caratteristiche? Perché insomma, una palla che arriva a 200 km orari, la persona che la riceve deve in qualche modo ipotizzare la traiettoria, sì, non può studiarsela lì per lì perché non avrebbe tempo. No, non è che la guardano. Assolutamente no, non ci sarebbe il tempo, ma il caso del tennis e della palla che viaggia così velocemente, in realtà basta anche una palla che viaggia a 50 km orari a porre il problema, è un problema che abbiamo tutti quanti in ogni momento. Se una persona mi lancia una mela, come faccio a prenderla? Le persone di solito non si pongono questo problema, noi, come dire, scienziati della mente umana ce la poniamo. E il problema è molto semplice, che quando l'oggetto parte, quell'informazione deve raggiungere gli occhi e dagli occhi viene inviata al cervello e il cervello ci impiega del tempo per realizzare, non dico nemmeno consapevolmente, ok? Dico proprio solo processare quell'informazione. Durante tutto questo tempo, mettiamo anche un tempo molto veloce, un quarto di secondo, la palla non sta ferma, sta continuando a viaggiare, giusto? Certo. Sì. Quindi nel momento in cui io realizzo una posizione della palla, la palla in realtà è già più avanti, o la forchetta o la mela, l'esempio che avevo fatto prima. Quindi è chiaro che non possono basarsi su un'analisi momento per momento, perché il cervello è sempre in ritardo. E allora questo cosa mi pare si fa? Evidente. L'unica soluzione che ha è anticipare, cercare di trovare qualcosa nel movimento dell'avversario, e questo si sa, sono stati fatti questi studi, che dica già al cervello dove sarà la palla fra mezzo secondo. In questo modo può anticipare, può trovarsi in time con l'evento e quindi può reagire, ma non può sicuramente star lì ad aspettare di vedere la palla che si muove, altrimenti, per quanto detto prima, sarebbe sempre in ritardo. Quindi il cervello è talmente sviluppato che predice la traiettoria della palla o dell'oggetto. O riesce a individuare un movimento, restiamo sul tennis, una certa inclinazione della racchetta che dice che la palla va a destra piuttosto che a sinistra. È esattamente così. E negli sport questo con la palla si sa anche dagli studi sul baseball. Ecco, stavamo introducendo quello, Chiara. Sì. Sì, perché negli sport con la palla questa cosa adesso è chiara da come l'ha spiegata, perché nel baseball penso che sia la stessa cosa nel momento in cui uno deve ricevere con la mazza. Certo, più o meno le velocità sono simili. Sono abbastanza. E si pone lo stesso problema. Ripeto, c'è l'abbiamo tutti in ogni istante della nostra vita, è che queste sono situazioni eccezionali che mettono più in risalto, come dire, potenziali limiti del cervello, ma anche come il cervello ha risolto questi limiti. Senta, si dice che uno dei, degli sport nei quali questa selezione fisiologica è fortissima è quello dell'automobilismo e Formula 1, che per un, in ogni periodo di 10-12 anni insomma seleziona 16-17-20 personaggi che hanno delle doti uniche, cioè il pilota di Formula 1 è veramente fuori standard. Lì non c'è la palla che arriva velocemente, c'è però, ci sono però microsecondi per decidere se frenare, non frenare, immediata. Cambiare. Certo, non c'è la palla che si muove velocemente, ma c'è il pilota stesso che si muove velocemente, quindi il problema è analogo, non cambia assolutamente niente. È analogo, lei dice. Eh sì, è la stessa cosa, deve riuscire a prevedere dove si troverà fra x millesimi di secondo, è esattamente lo stesso problema. E io e Federico ci interrogavamo, allora mettiamo tutto sul piatto della bilancia, anche per i velocisti, i corridori, che si trovano, ecco, sulla pista, sulla linea di partenza in atletica, ecco, lì la frazione di secondo della partenza falsa o della partenza corretta si gioca sul millesimo di secondo, sulla reazione e lì, micro reazione. Assolutamente, lì non c'è il problema di doversi confrontare con un oggetto o con la velocità della persona che si sposta, perché è ferma all'inizio la persona. Lì si tratta di riuscire a percepire e reagire il più velocemente possibile a un suono, nel caso di un velocista. Lì ci sono due componenti, direi. Una, allenare da un punto di vista proprio motorio la reazione, e quindi mi immagino che di nuovo qui c'è un'interazione tra una predisposizione genetica a avere fibre muscolari più rapide e più potenti nel contrarsi, che quindi danno la possibilità di staccarsi dai blocchi più velocemente, ma anche un cervello che sta cercando di anticipare per quanto possibile il momento in cui arriverà il segnale, e che gli atleti, i velocisti, cerchino di anticipare è dimostrato dal fatto che ogni tanto anticipano troppo. C'è la partenza falsa. Certo. Ecco, però guardi, qui a noi venivano decisamente dei dubbi. Allora, intanto, loro non guardano l'uomo con la pistola. Probabilmente gli sarebbe scomodo meccanicamente. Meccanicamente non è possibile questo. Sì. Però loro, mi pare che la partenza falsa sia quella che avviene al di sopra di un decimo di secondo, no? Al di sotto. Al di sotto, scusi, certo, sì. Di un decimo di secondo. Credo sì che ci sia un limite attorno ai, credo, non sono sicurissimo, attorno ai 130 millesimi di secondo, qualcosa del uno genere. Uno bravo a sfruttare quell'angolino lì? Ma lì che cos'è che può prevedere lui? Credo, non sono sicuro che ci siano dei tempi, cioè, come dire, la persona che dà il via non è che può aspettare 2 minuti da quando i soggetti, certo, si sono posizionati. Ci sarà un intervallo di tempo stimato e che gli atleti hanno imparato bene a stimare, certo, entro il quale il segnale deve arrivare. Ma poi dopo ci può essere una differenza, che ne so, nel percepire il suono? Certo. Possono realizzare più velocemente di un'altra persona il momento in cui il suono è arrivato. E beh, famosa reazione, in effetti. E qui noi diciamo delle cose che sembrano, no? No, tra l'altro sembrano anche molto semplici da capire, però ci sono, però 50 sono anni di ricerca, mi dica se sbaglio, Turato. Sì, sì, anche nell'ambito dello sport sicuramente ci sono anche ormai, penso, 60-70 anni di ricerca, in cui prima gli psicologi, ultimamente gli scienziati cognitivi o gli neuroscienziati si sono interessati delle abilità cognitive degli atleti, esattamente per lo stesso motivo per cui inizialmente si interessavano dei deficit nelle persone. Quindi per capire come funziona la mente umana uno va a vedere sia quando fallisce, e quindi le patologie, per capirci, certo, sia quando mostra abilità eccezionali. Va bene, grazie Turato, buon lavoro davvero. Buon lavoro anche a voi. Arrivederci. Arrivederci. E qui con me questa sera Tommaso Aiello. Buonasera Aiello. Buonasera a voi. Ideatore e coordinatore della Borsa della Ricerca, che incomincerà lunedì prossimo a Bologna e fa lunedì, martedì e mercoledì. Aiello, che cos'è questa Borsa della Ricerca della quale noi parleremo, e quindi adesso le chiediamo solo di farci un lancio, insomma, descrittivo di questo meeting? Ecco, l'idea, se vuole, molto semplice, di trovare un momento di incontro fra chi nelle università, nelle start-up fa ricerca, e chi nelle imprese è interessato a fare innovazione. Facciamo confrontare in una 3 giorni di eventi, ma soprattutto in una giornata di appuntamenti uno a uno, di confronto diretto. Io ci sono già stato una volta, ci sono proprio come dei box e si trovano lì davanti a 4 occhi o a 6 occhi, dipende da quanti arrivano tra un gruppo e l'altro. E però questi che arrivano portano delle idee specifiche e le aziende le ascoltano e vedono se può iniziare un rapporto. Ecco, in realtà la cosa bella è che funziona in tutte e due le direzioni. A volte sono le aziende che portano delle idee e non cercano il know-how, cioè cercano qualcuno esperto in un determinato settore. La nostra impostazione è di mettere tutte e due sullo stesso piano, quindi certo. Ognuno dei due può raccontare quello che fa e magari è proprio da quegli incontri che lei ha visto che viene fuori l'idea comune. Sì, ecco, c'è da dire che c'è un lavoro di preparazione, per cui quando si trovano lì a un tavolo dei contenuti sono già stati scambiati, no? Esattamente, in queste settimane tutti gli enti coinvolti stanno lavorando sul sito per caricando all'inizio le idee progettuali, adesso decidendo chi vogliono incontrare. Certo, se non c'è il lavoro preparatorio una cosa di questo genere non funziona. Per quello che ho visto io, e vediamo anche questa volta, ma credo che sarà confermato, la cosa interessante è che al di là poi dei contenuti specifici c'è proprio questo, e questo vale per i giovani innovatori, c'è questo incontro con il mondo aziendale che insomma è sempre complicato e lì si impara a relazionarsi con il mercato e fare impresa. Credo che possa essere una prima esperienza soprattutto per gli spin-off, per le start-up, per tutte quelle realtà giovani, come dice lei, che hanno un'opportunità concreta in una giornata di incontrare 4-5 potenziali partner e sperimentare sul campo che cosa significa presentarsi. Tommaso Agnello, io la ringrazio e ci vedremo lì a Bologna, perché poi ne parleremo qua in trasmissione. Arrivederci. Grazie di tutto. Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Beh, ormai, Chiara, ci sono anche delle battute, no? Quando si dice il mio unico neurone, mi è rimasto un solo neurone. Sì, e di solito non è un complimento. No. Ma è per dire che questi neuroni, che sono così importanti per quello che combiniamo con la nostra testa... Se rimangono soli è un problema. Se ne vanno è un problema. Ecco, però noi affrontiamo il problema del problema, cioè se ne vanno o non se ne vanno. Oppure si rigenerano, si moltiplicano. Insomma, c'è una bella querela che cerchiamo di chiarire con Luca Bonfanti. Buonasera Bonfanti. Buonasera a voi. Benvenuto. Allora, docente dell'Università di Torino di anatomia a veterinaria, no? A Torino? Sì, esatto. Però lei è anche ricercatore presso il Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi, sempre lì a Torino, e in questo istituto si discute molto di questo tema. Il neurone è rimasto, il neurone invece che si è rigenerato. L'abbiamo buttata inizialmente scherzando un po', però il tema è questo, e cioè circolano le informazioni più diverse. Lei ha scritto un articolo sul Domenicale del Sole 24 Ore che ha cercato di mettere un po' i piedi nel piatto proprio di questo tipo di polemica. Allora, sì, da una parte si parla di plasticità cerebrale, cioè scopriamo che i neuroni invece possono vivere di più, che si rigenerano, si evolvono, e dall'altra invece si dice che che non è così e che c'è una bella rigidità e non possiamo pensare di avere i neuroni come tutte le altre cellule. Insomma, come stanno le cose? Sicuramente ci sono delle notizie positive, perché sono ormai 20 anni che sappiamo che ci sono alcune zone del cervello, anche nei mammiferi, anche nell'uomo, che producono nuovi neuroni durante tutta la vita, anche se questo è un fenomeno più evidente nel giovane e poi diminuisce gradualmente con l'età. Però è stato visto che anche in individui anziani c'è la possibilità di generare alcuni neuroni nuovi. Ecco, questo ormai si sa. Sì, questo si sa. Siamo sicuri. Il problema è che queste zone sono molto piccole. Sono due zone piccole che si trovano vicino ai ventricoli laterali, al centro degli emisferi cerebrali, e nell'ippocampo, cioè quella zona dove vengono un po' archiviati i ricordi, la memoria. Quindi c'è la possibilità di generare nuovi neuroni, ma questi neuroni sono pochi. È stato calcolato in un recente studio anche che abbiamo fatto noi, proprio in collaborazione con il dottor Arturo Alvarez Buiglia, che è quello che ha scoperto nel 93-94 questo fenomeno, e abbiamo calcolato che insomma vengono prodotti ad esempio in un topo, nel cervello di un topo, circa 10.000 neuroni al giorno, ma questi sono pochi rispetto al numero totale e molti di questi comunque muoiono, quindi è un fenomeno che esiste, che è confermato ed è estremamente affascinante, ma che non deve essere trasformato in una panacea per cui noi possiamo curare le malattie. Sicuramente la strada da percorrere è quella di investigare ulteriormente questi fenomeni e di cercare di capire se possiamo in qualche modo sfruttare questa conoscenza. Cioè, esatto. Si tratta di riuscire a trasmettere questa informazione anche ad altri neuroni in altre aree cerebrali, dargli un input perché possano riprodursi, perché al momento sono solo localizzati, il che vuol dire che non sono uguali agli altri questi neuroni. No, assolutamente, sono dei neuroni giovani che poi alcuni sopravvivono e si integrano in alcune zone del tessuto, come ad esempio nel bulbo olfattivo e nell'ippocampo appunto, e lì svolgono delle funzioni precise, delle funzioni fisiologiche, cioè per migliorare l'apprendimento di alcuni fenomeni che sono importanti per la vita dell'individuo in quelle zone però. Quindi il fatto di poterli sfruttare per curare delle malattie è ancora un po', diciamo, una fantasia, anche un obiettivo di chi come noi lavora su queste cose. È un po' questo il punto, perché sapendone di più si potrebbe riuscire a capire quando ad esempio si deteriorano, ci sono delle malattie neurodegenerative, in qualche modo si potrebbero curare, ecco, diciamo così, o rigenerarne di sani, nella migliore delle ipotesi. È un obiettivo, certo, questo è un obiettivo ancora un po' lontano. La strada è questa, cioè cercare di capire come è possibile che nel cervello adulto si formino dei neuroni nuovi e possano svolgere delle funzioni nei circuiti preesistenti, ma cercare di capire come questo possa essere sfruttato anche per altre zone, cioè quelle dove poi ci sono le malattie neurodegenerative. Certo. Ecco, però lei, proprio a fronte di questa situazione estremamente complessa, lei e il suo gruppo, insomma, e anche altri, quello che state sviluppando è una certa critica a come circola l'informazione su queste cose. Questo senz'altro, perché le informazioni vengono talvolta modificate, travisate, ingigantite e si perde innanzitutto la percezione della complessità di questi fenomeni e della complessità della ricerca che va a studiare questi fenomeni. Per cui da queste informazioni, da queste notizie, che sono sicuramente positive e sono vere, cioè noi abbiamo queste possibilità all'interno del cervello, e si va poi direttamente a dire che allora siamo sulla strada per curare molte malattie neurodegenerative, e ci sono già degli utilizzi anche di cellule staminali, che però hanno altri scopi, cioè le cellule staminali che si usano oggi in alcuni trial clinici, peraltro, non in terapie, nel sistema nervoso, quindi avremo la risposta solo fra 5-6 anni, e sono in realtà rivolte a degli altri effetti, cioè a degli effetti benefici generici che potrebbero ad esempio ridurre i sintomi di alcune malattie neurodegenerative oppure rallentarne un po' il decorso, ma che non sono attualmente volti a curarle, nel senso a risolverle, perché non sono in grado queste cellule staminali di sostituire le cellule perse, i neuroni morti o anche le cellule gliali come gli oligodendrociti nella sclerosi multipla. Quindi c'è un po' di confusione tra quelli che sono i reali effetti di questi trattamenti, che sono tuttora sperimentali, e quello che invece viene proposto come delle cure, talvolta solo perché c'è confusione, quindi un po' per ignoranza, ma altre volte a scopo di lucro, e questo, ecco, non le staminali. Voglio scendere nella polemica perché se ne è parlato, certo, tanto, però ci sono ovviamente, certo, delle terapie che vengono offerte come tali, ma che non sono tali, per cui la gente è confusa. Ecco, io oltre a spiegare quello che è il merito di queste ricerche, che è molto complesso in realtà da spiegare, vorrei proprio sottolineare che talvolta l'informazione non è chiara e viene travisata, quindi. E poi perché è un argomento molto delicato che appunto colpisce molto la sensibilità anche della persona, e la malinformazione o comunque l'informazione incompleta, sì, può giocare questi brutti scherzi. Sì, infatti noi sappiamo perfettamente chiara, no, che mandando in onda questo servizio ci arriveranno delle mail che chiederanno di entrare in contatto con lei per vedere che cosa si può fare dal punto di vista terapeutico. È assolutamente comprensibile dal punto di vista umano, però certo deriva dal fatto che ci sono, come dire, delle luci, dei focus, no, che improvvisamente si accendono su delle possibilità che però in realtà, se non si entra nei particolari, insomma, non sono reali opportunità. Questa ombra, no, questa luce che arriva dalle staminali anche su neuroni rischia di essere quanto mai negativa. Esatto, esatto. Io sono disposto appunto a spiegare sia quali sono i progressi della ricerca, qual è il punto in cui siamo, quali sono le prospettive, gli obiettivi, se vogliamo anche le speranze, perché chi fa questo lavoro ha delle speranze, il ricercatore è il primo, certo, a sperare ad essere ottimista, però nello stesso tempo sono anche disposto a spiegare quelli che sono gli attuali limiti delle nostre possibilità e soprattutto quelli che sono i limiti del sistema nervoso rispetto ad altri tessuti nel riparare e nel rigenerare, perché questo è il problema. In altri tessuti abbiamo già delle tecniche, delle terapie vere e proprie con cellule staminali che funzionano benissimo, che funziona. Ad esempio nella cornea. La cornea può essere ricostruita grazie a cellule staminali prelevate dallo stesso paziente. E ci sono dei gruppi in Italia che fanno questo da anni, che sono stati tra i pionieri nello sviluppo di queste terapie. E in questi certo. casi funzionano. Ci certo. sono pazienti da 10 anni trattati, ma nel sistema nervoso non è la stessa cosa, perché è proprio il tessuto che è diverso. Perché e il cervello poi... è nato per essere abbastanza perenne, abbastanza statico. E poi anche il compito più difficile, quindi certo. è il più complesso di tutti. E lì quello si mette... che studiamo noi è un'eccezione alla regola. E lì si mette insieme tutto, perché si dice sono cellule, sia no, quelle che del fegato che quelle del cervello. In realtà non questo assimilare è quanto mai superficiale. Sì, perché le cellule sono intanto simili e non uguali, ma comunque sono simili. Le cellule staminali, i progenitori che si trovano in vari organi hanno delle caratteristiche comuni, però il problema è che agiscono e sono presenti in diversi tipi di tessuto e quindi in diversi tipi di ambiente e non tutti gli ambienti sono, è come una pianta che in un certo terreno può si crescere naturalmente, in certo mentre modo. In un deserto magari non può farlo. La relazione cellula-ambiente è una relazione strettissima. Esatto, e questa è la parte più complessa che non viene mai spiegata, perché è anche difficile da spiegare e per noi è il grande problema. La ricerca è questo che cerca di capire, proprio le relazioni tra cellule e ambiente, ambiente del sistema nervoso che è un po' refrattario alla riparazione, anche per ragioni evolutive. Lei sottolinea questo aspetto dell'evoluzione come un processo che crea in questo caso proprio i sistemi complessi, no? Sì, il sistema nervoso come altri organi si è evoluto, no? Nel corso di milioni di anni e nei mammiferi, quindi anche nell'uomo, si è evoluto per svolgere funzioni sempre più complesse, ma ha perso, in questo processo evolutivo, ha perso molte delle sue capacità plastiche. Cioè il cervello di un pesce, ad esempio, di un anfibio, se danneggiato può rigenerare in modo abbastanza consistente. Noi abbiamo perso questa capacità ed è stata una scelta evolutiva, una scelta anche legata al fatto che i nostri antenati centinaia di migliaia di anni fa avevano una vita di 25 anni, cioè dopo l'età riproduttiva, anche se morivano da un punto di vista evolutivo, non era poi così grave. E quindi avere un ictus a 30 anni o anche dopo non veniva considerato come un qualcosa meritevole di riparazione. Poi noi abbiamo allungato la vita umana, noi sappiamo che in base alle condizioni migliori di vita, l'igiene e i progressi della medicina, noi oggi viviamo fino a 70, 80, fino a 100 anni e quindi è chiaro che il cervello però che noi abbiamo dal punto di vista mentale, dal punto di vista delle funzioni è estremamente evoluto ed è molto diverso da quello dei nostri antenati, ma dal punto di vista strutturale, e cioè dal punto di vista delle sue capacità rigenerative e riparative, è rimasto quello degli ominidi da cui deriviamo. E questa è stata una scelta che ha portato sicuramente dei vantaggi perché ci ha portato a essere quello che siamo, ma nello stesso tempo ha avuto anche degli svantaggi perché il nostro cervello non è più in grado di riparare oltre certi limiti. Certo, viviamo Spero troppo a lungo. Spero che sia chiaro, un concetto un po' complesso. No, è chiaro. Va bene, grazie Bonfanti. Grazie a voi. Grazie e buon lavoro. Arrivederci. Dunque, Chiara, abbiamo aperto con le carote, abbiamo chiuso con i neuroni. Bene, buona settimana a tutti e a tutte. Buona settimana.